togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Dona a noi la pace, dona a noi la pace.